estate caldo e vita, e c'era amore. Era estate vita e so perché c'è bisogno d'ombra e sotto un pino, con il cuore in mano sfioro il tuo cuore infranto, cuore che mi sta lontano, cuore che dà vita e accende le pazzie, anche se dormo, anche se piango, anche se guardo intorno avanti il mondo è immenso, ne devo uscire presto e so perché. Tocco le tue mani e penso in grande, fuori c'è è sicuro un'altra te. Che di giorno in giorno mi sa stare a fianco, un'altra che mi sa guardare dentro ed io che vedo spazi e non confini, che credo che l'amore è ovunque attende me. Credo che è l'amore che mi hai dato tu, è speciale, è tutto ciò che resta in me. Quando penso al mondo mio senza di te, vedo il grigio e nera la vita. Prego stai qui, non andare via. Freddo e gelo caleranno in me. Il mio amore immenso come il mondo ti circonderà e sarai parte di me. Ricordo ancora le lune accese, le dolci attese, di sera che il silenzio mio ci consumò. Fremevo le tue labbra dolci, accarezzavo, che calici d'amore colmi io rifiutai. Ferita al petto rude te ne andrai, verso nuova vita allegre mi lascerai, ed io confuso, anche se illuso, di vivere da solo bene, ma anche senza te. Che l'amore che ti ho dato io è speciale, è tutto ciò che hai di me. Quando penso al mondo mio senza di te, vedo il grigio e nera la vita mia. Ti prego stai qui, non andare via. Freddo e gelo caleranno in me. Il mio amore in me. sarai parte di me.